Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. First of all, I'd like to thank Sir Peter Westmacott, who is the British ambassador to the United States, for co-hosting this lunch. Beh, oggi voglio darvi una presa diretta di un evento newyorkese, uno dei classici eventi newyorkesi culturale mondano, diciamo. La voce che vi ho fatto ascoltare è quella di Peggy Siegel, che è una delle più importanti organizzatrici di eventi cinematografici negli Stati Uniti. Ha organizzato un evento per un film, per un nuovo film, che uscirà il 1 di maggio, che si chiama Far From the Madding Crowd, con Carey Mulligan, Tom Sturridge, Matthias Schoenaerts, regia Thomas Vinterberg. È un film, diciamo che è un po' un polpettone, un po' uno di questi filmoni di fine Ottocento, dove ci sono dei drammoni, dove ci sono delle storie d'amore che magari non finiscono bene. Perché voglio parlarvi di questa storia? Perché il film ha un'attrice inglese, c'è una componente molto britannica in questo film. Il posto dove questo evento è avvenuto è alla Granuille. La Granuille è uno dei ristoranti migliori di New York, che ha all'ultimo piano una sala privata con un grande lucernaio, e devo dire molto bella, molto suggestiva. Ci saranno state una cinquantina di persone, tra cui gli attori Carey Mulligan e Tom Sturridge, e tra cui l'ambasciatore britannico Sir Peter John Westmacott, che è stato appunto presentato da Peggy Siegel. E qual è il tema di fondo qua di cui voglio parlarvi? È questo rapporto privilegiato fra Gran Bretagna e Stati Uniti, fra inglesi e americani. This is an opportunity for us as representatives of the United Kingdom officially, British government and the British ambassador to the United States, to show our pride in and to celebrate the arrival of such British talent. Ecco, l'ambasciatore riassume quello che volevo dirvi. Dice: questa è un'opportunità per noi come rappresentanti ufficiali della Gran Bretagna, del governo britannico, dell'ambasciata britannica negli Stati Uniti, di mostrare il nostro orgoglio nel celebrare l'arrivo di un talento così importante a New York, cioè Carey Mulligan. Dovunque voi vi guardiate qua attorno in questa sala, dice l'ambasciatore, l'influenza della creatività britannica qui in città New York e nell'intero paese degli Stati Uniti è qualcosa che mi dà grande orgoglio. Avere Carey Mulligan è una delizia, avere questa possibilità è una grande sorpresa, perché quest'anno abbiamo avuto 24 Oscar. E continua il signor Westmacott, dice, una quantità enorme di talento che si esprime in modi molto diversi nel teatro, nei film, nei giornali. L'invasione britannica è iniziata 50 anni fa coi Beatles e mi sembra che continui in gran forma. È vero che continua in gran forma, perché nel pubblico c'erano Tina Brown, per chi non lo sapesse, una grandissima giornalista inglese, che però è stata direttore di Vanity Fair, direttore del New Yorker; Anna Wintour, che è il direttore di Vogue; poi scrittori come Christopher Mason, persone che lavorano in editoria. La gran maggioranza del pubblico in questa sala era un pubblico inglese. Ebbene, in questa sala però c'era un italiano che ha avuto un grande successo in America e che dirige un importante magazine americano, W. Si chiama Stefano Tonchi ed è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora Stefano, ma insomma, questi inglesi sono bravi, perché alla Granuille hanno combinato, come dire, una cosa molto ben fatta. Beh, fanno veramente spirito di gruppo. Bisogna imparare non solo l'inglese, ma imparare dagli inglesi. Riescono a veramente presentare un volto unico e un accento unico, in questo senso. Ecco, ma secondo te gli americani hanno un po' di soggezione degli inglesi? Direi che c'è un rapporto di amore e odio, perché chiaramente, leggendo la storia americana, gli inglesi sono stati i nemici dell'indipendenza americana e anche, diciamo, dell'innovazione che l'America ha portato nel mondo. Nello stesso tempo però c'è questo rispetto, c'è un rispetto per la lingua e forse anche un rispetto per l'educazione anglosassone. Le scuole inglesi formano delle persone che non solo parlano parlano inglese perfettamente e con l'accento giusto e talvolta anche, come dire, un po' sforzato, ostentato direi, però hanno anche dei contenuti, riescono veramente spesso a contestualizzare la notizia, a non fermarsi alle liste, a non fermarsi alla celebrazione, riescono ad andare un pochino più profondamente e anche hanno un grande senso dell'ironia che devo dire è spesso utile. L'America è aperta anche a raccogliere persone di talento, ma come mai gli americani non esprimono delle persone di quel genere? L'America è, come si sa, un mix di qualsiasi nazionalità e tutti hanno delle possibilità di raggiungere delle mete, delle volte anche pensate irraggiungibili. Quando, non so, mi hanno chiesto di diventare tipo il direttore del New York Times Sunday Magazine, chiaramente non solo ero il primo italiano, però sicuramente uno dei primi stranieri. Prima di me c'erano stati, penso, un paio di inglesi, chiaramente. Questo era ancora qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Dico che si può riuscire a entrare nel sistema americano, le porte sono aperte, bisogna adeguarsi al sistema americano, non venire e pensare di lavorare da italiano, da francese o da qualunque sia la nazionalità che uno ha. E gli inglesi sono molto bravi a tollerare, a come dire, in qualche modo infiltrarsi, e hanno questa capacità camaleontica, direi, di lavorare con chiunque. Pensiamo all'impero britannico. Infatti, ecco, una delle cose che io ripeto in continuazione qui su America 24 è l'importanza di imparare l'inglese, di impararlo bene, di insegnarlo ai ragazzini, ai nostri figli fin da piccoli, di modo che hanno uno strumento che poi li aiuta non solo in America ma nel mondo. Ecco, questo forse è il primo passo che dovremmo fare. Avere la capacità di comunicare è il primo passo, perché non solo ci sono i contenuti, c'è anche proprio la capacità di comunicare, che è importantissima, e questo è attraverso la lingua. L'inglese ha questa facilità di diffusione che penso non solo è diventata lingua universale, perché è una lingua che è molto breve, è molto veloce, molto concisa e che ha tante sfumature, ma ha una grande facilità di diffusione. Ecco, ultima cosa, come possiamo fare squadra? Tu hai detto gli inglesi fanno squadra, gli italiani un po' meno forse. Gli inglesi sono una delle più vecchie, direi, monarchie, uno degli stati nel mondo creati prima, quindi c'è una specie di unità, un senso dello stato, un senso della cosa pubblica, un senso della lingua che chiaramente altre democrazie, altri regimi nel mondo, altri stati non hanno. Io spiego sempre agli americani qualcosa di fondamentale sull'Italia, che l'Italia è una delle democrazie più giovani nel mondo, è uno stato che è nato veramente poco più di 100 anni fa e che fino a forse 50 anni fa non aveva una lingua comune. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.